la vita e della morte. Abbiamo detto che nel 400 l'icona della Vergine di San Luca era gestita dalla Compagnia di Santa Maria della Morte. Il nome completo dell'ordine era Compagnia dei Devoti dell'Ospedale di Santa Maria della Morte e fu fondato a Bologna nel 1336. Nonostante il nome suggestivo lasci intendere chissà quali attività, si trattava essenzialmente di una confraternita dedita all'assistenza dei condannati a morte, che fu poi elevata al rango di arciconfraternita nel 1586 da Papa Sisto V. È Giuseppe Guidicini a raccontare come i membri della confraternita davano conforto ai condannati. Si legge in un passo che li battuti della Compagnia della Morte davano la nuova al condannato nella sua prigione presenti gli altri carcerati. E poi montava alla ringhiera del Palazzo del Podestà ove era letta al condannato la sua sentenza. Durante la lettura della sentenza era ufficio del consolatore di confortare il condannato ad altissima voce, a ciò non intendesse la lettura della sentenza, poiché era accaduto sovente che sentendosi condannare per fatti o non commessi o non confessati se ne lagnava, pretendeva giustificarsi e succedevano inconvenienti che si vollero evitare impedendo che nulla intendesse della sua sentenza. Insomma, da quanto riportato si apprende che era preferibile che il condannato a morte non udisse le parole della sentenza, per evitare che se ne lamentasse. Oggi conosciamo il portico della morte, alle spalle dell'archiginnasio, come unica testimonianza rimasta degli edifici della confraternita. Ma nel XIV secolo l'intero isolato era occupato dalla loro chiesa e dall'ospedale, fondato nel 1347. L'ospedale, di cui il portico costituiva l'ingresso, si estendeva tra il Pavaglione, Via dei Foscherari, Via Marchesana e Via dei Musei, che infatti si chiamava Via della Morte, in fondo alla quale si trovava l'antica spezieria della morte. I suoi locali, oggi sede del Museo Civico Archeologico, ospitavano uomini, donne e feriti in sezioni separate. C'erano poi uffici, una ghiacciaia e una serie di ambienti destinati alla scuola di medicina. Infatti, a partire dal XVI secolo, con la costruzione dell'archiginnasio come sede dell'università, l'ospedale della confraternita divenne meta frequente degli studenti in medicina, ai quali era permesso di effettuare studi anatomici sui cadaveri dei giustiziati. Una piccola curiosità. Pare che Pierpaolo Pasolini, durante la sua permanenza a Bologna negli anni 40 del secolo scorso, amasse passare il suo tempo libero sotto il portico della morte, alla ricerca di libri a poco prezzo. Il banco di libri usati frequentato da Pasolini esiste ancora. È la libreria Nanni, la più antica della città, avviata nel 1825 dalla famiglia Marchesi e rilevata nel 1928 da Arnaldo Nanni, che la attrezzò con le caratteristiche bancarelle in stile parigino sotto il portico. Nel 1350 la Confraternita della Morte costruì una chiesa consacrata a San Giovanni Battista Decollato, detta della Giustizia, adiacente al cimitero dove venivano sepolti i condannati a morte, nell'area dove attualmente sorge il giardino della Montagnola. Questa zona era riservata alle esecuzioni per decapitazione. Il cimitero venne soppresso per decreto napoleonico nel 1805, quando la Montagnola venne convertita in parco pubblico. Nei secoli era diventata una sorta di discarica della città dove veniva gettato di tutto. Pensate che c'erano ancora le macerie della Rocca di Galliera. 3 anni dopo, la chiesa di San Giovanni Decollato venne demolita e i materiali vennero utilizzati per costruire il muro che sostiene il terrazzino della Montagnola. È superfluo specificare che non venne nemmeno in mente di trasferire i cadaveri dei giustiziati in un altro cimitero. L'area venne semplicemente ricoperta di terra. È opinione comune che sotto il parco siano ancora conservate le ossa di generazioni di condannati a morte. Tra i membri celebri della confraternita ricordiamo Graziolo Accarisi, membro del Consiglio cittadino e promotore dell'iniziativa di portare in processione la Vergine di San Luca per chiedere l'intercessione divina e far smettere le piogge. Mentre la Compagnia di Santa Maria della Morte era dedita al conforto dei condannati a morte, fin nel Medioevo a Bologna ci fu un'altra confraternita che si occupò, invece, dell'assistenza ai malati. Si tratta dei Battuti di Santa Maria della Vita, la cui sede era la Chiesa di Santa Maria della Vita, ancora presente in via Clavature, proprio di fronte al Portico della Morte. La confraternita fu fondata nel 1261 da Raniero da Perugia e aveva come stemma 3 teschi sormontati da una croce con flagelli pendenti. Si deve a loro la costruzione del primo ospedale della città, nel 1275, dove accoglievano infermi e pellegrini, l'Ospitale di Santa Maria della Vita, adiacente alla chiesa e in seguito chiamato Ospedale Maggiore. Pare che per costruirlo siano stati utilizzati i beni requisiti alla famiglia ghibellina Lambertazzi, appena esiliata nell'ambito delle dispute con i Guelfi. Raso al suolo dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, l'ospedale maggiore è stato poi ricostruito nell'attuale sede di Via Nigrisoli. Le due confraternite avevano in comune l'attività assistenziale e un'altra caratteristica, l'essere dediti alla pratica dell'autoflagellazione. Per farsi un'idea di come doveva essere incontrare per strada un gruppo di frati che si fustigavano, esiste una tavola datata 1677 che raffigura i membri della Compagnia dei Battuti in processione davanti all'antico portico della Cattedrale di San Pietro, alcuni con i flagelli tra le mani e altri con la croce sulle spalle. Va detto che nel corso della loro storia fecero parte della Compagnia dei Battuti alcuni esponenti delle famiglie più importanti di Bologna, e infatti fu un Pepoli, il conte Giovanni, a finanziare le decorazioni dell'oratorio nel complesso di Santa Maria della Vita, all'interno del quale i membri della confraternita si dedicavano alla preghiera e alle penitenze. Proprio nell'oratorio, oggi convertito in Museo della Sanità, si trova il gruppo scultoreo in terracotta realizzato da Alfonso Lombardi nel 1522. Il transito della Vergine, un autentico capolavoro, sconosciuto alla maggior parte dei visitatori della città, con cui lo scultore emiliano rielabora gli stili neoclassicisti provenienti da Firenze e Roma, con influenze che vanno da Michelangelo a Raffaello. Si tratta della rievocazione di un episodio descritto nei Vangeli apocrifi e nella Leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Racconta che durante i funerali della Vergine un sacerdote ebreo abbia tentato di rovesciare il feretro e dare fuoco al corpo. Per impedirlo, un angelo armato di spada intervenne e gli tagliò le braccia. Originariamente le sculture erano policrome, ma vennero ridipinte con un colore neutro nel 600, allo scopo di mimetizzare la terracotta, un materiale considerato poco pregiato, per farle sembrare di marmo. Ma perché la confraternita scelse un soggetto tanto controverso? Pare che il motivo si colleghi all'ondata di antisemitismo cominciata in città almeno un secolo prima, con l'ostilità nei confronti dei prestatori ebrei protetti dai Bentivoglio, al punto che risale alla fine del XV secolo la fondazione, a Bologna, del primo monte di pietà per contrastare l'usura. Non meno suggestiva è un'altra opera di terracotta conservata all'interno della chiesa di Santa Maria della Vita, il compianto su Cristo morto. Realizzato a metà del 400 da Niccolò dell'Arca, è considerato il massimo capolavoro in terracotta del Rinascimento. Ritrae sei figure a grandezza naturale radunate attorno al corpo di Cristo, dopo la deposizione dalla croce. Nicodemo, la Madonna, San Giovanni Apostolo, Maria Maddalena e altre due Marie. Cristo morto è adagiato su un catafalco, con la testa appoggiata a un cuscino. Quello che colpisce maggiormente lo spettatore è l'estrema espressività dei volti. La Madonna ha il viso contratto dal dolore. La Maddalena è colta mentre accorre e sembra sul punto di inginocchiarsi di fronte al cadavere sgomenta. Inizialmente collocate in un vano presso la porta di via Pescherie Vecchie, le statue furono trasferite nel transetto della chiesa in seguito a un crollo. L'opera fu sostanzialmente ignorata per secoli perché ritenuta troppo drammatica, al punto che per i bolognesi le Marie piangenti divennero le burde, befane mostruose utilizzate come spauracchi per i bambini capricciosi. Il compianto è stato rivalutato all'inizio del Novecento, dopo che fu rinvenuta la firma dell'autore sotto il cuscino che regge il capo di Cristo. Esattamente come il transito della Vergine, tuttavia, anche il compianto ha perso la policromia originale, che doveva apparire estremamente vivace. Celebri le parole con cui Gabriele D'Annunzio descrisse la sensazione provata di fronte all'opera. «Mi sembrò essere percosso da un vento di spasimo, da un nembo di sciagura, da uno schianto di passione ferale. Quella era la vita, quella era la morte, un orrore unico entrambe». All'inizio dell'Ottocento, per effetto dei decreti napoleonici, le confraternite della vita e della morte sono state entrambe abolite e i loro beni destinati al comune. I misteri del